Crowd Me Up, la voce del crowdfunding, in collaborazione con Apple. E allora, anche oggi due progetti scelti dalla piattaforma di Epera, due progetti che cercano il vostro, il nostro aiuto con il crowdfunding, e quindi è il momento anche della nostra giuria. Allora, conosciamo Virginia da Roma. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno. Che tra l'altro, ecco sì. No, io era per il tradimento. Ecco, sì, vai Virginia, raccontaci allora, la tua storia di tradimento. Devo raccontarla con calma, perché sennò mi si rizzano i capelli. Allora, io ero giovane ed ero sposata e aspettavo mio marito a New York. Sì. E lui a un certo punto, sulla quinta strada, mi disse: io ho un pensiero per te. Scusa, perché eri a New York tu? Per lavoro? E io lavoravo a Washington, sì. Lavoravi a Washington. E tuo marito, sì. No? No, mio marito veniva in America perché l'avevo chiamato io. Ah, in quel momento ti stava raggiungendo per venire a vivere con te? Sì, sì. Ah, ok. E lui sulla quinta strada mi disse: ho un pensierino per te. Apri la valigia sulla quinta strada. E mi dette una scatolina, e io convinta che era un anello, e quando aprì la scatolina era vuoto, e lui mi disse con la faccia proprio da pirla, non ho parole, da pirla, mi disse: oh, quanto mi dispiace, mi hanno rubato l'anellino sull'aereo. E invece non era così. Io ero una gnoccolona e io quasi quasi ci credetti, e no, non era così. E poi dopo un mese o due arriva una lettera a casa a Washington dove c'è scritto un suo amico che mi diceva: tua moglie in Italia sta benissimo e non vede l'ora di rivederti. Cioè avevo un'altra donna. Un'altra moglie proprio in Italia. La quale chiamava moglie. Ma sì, pensa a lei dette l'anello. Io credo che una sta cosa del genere, io non ho mai letto una cosa del Virginia, genere. Virginia, lei è stata proprio sfortunata, anche perché in tutto questo ci ha perso anche l'anello, perché almeno se puta caso l'anello se lo beccava lei, almeno era un qualche cosa. No, sto scherzando, però ma forse è meglio scoprirlo prima che dopo da questo punto di vista, no Virginia? Avete avuto tempo per rifarvi una vita? Diciamo che ho divorziato e diciamo che ho promesso a me stessa che non mi sarei mai più sposata, e cosa che ho fatto. Va bene, grazie, resta con noi, perché se vuoi puoi giocare con noi e fare da giuria per i nostri progetti di crowdfunding. L'altra giurata è Paola da Ravenna, l'abbiamo già sentita, di ritorno dall'Iran. Paola, eccola qua. Sì, sono qui, buongiorno. Bene. Allora, restate belle concentrate, andiamo a presentare il primo dei due progetti di oggi. Lascio a te la parola, Alessio. Vai, lo faccio tutto io, va bene. Base, effetto. Il primo progetto si chiama Outdoor Regione 365, è il progetto nato in Emilia-Romagna per dare la possibilità alle persone disabili di fare sport tutto l'anno all'aria aperta. Verranno organizzate attività sulla neve, ma anche in bicicletta, tutto l'anno, estate e inverno. Per sostenere questa bella iniziativa bisogna però raggiungere un traguardo, ed è il traguardo dei 25.000 euro. Ce ne parla Matteo Brusa della Fondazione per lo Sport Silvia Rinaldi. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Chi è la Silvia Rinaldi? Intanto una curiosità. Silvia Rinaldi è una nostra amica che è venuta a mancare anni fa per un incidente in montagna, e nel 2006 è stato deciso di intitolare la Fondazione per lo Sport alla sua memoria. Esatto. Raccontaci allora, Matteo, come e perché possiamo e dobbiamo sostenere questo progetto? Beh, il nostro progetto è importante perché dà appunto la possibilità, come dicevi, a tante più persone con disabilità di vario genere, sia motoria che cognitiva che sensoriale, di fare sport all'aria aperta. E la grande potenza dello sport all'aria aperta è che intanto è uno sport a livello dilettantistico, non facciamo nulla a livello agonistico, e la grande potenza è quella che permette a persone con disabilità di vario tipo di fare attività sportiva assieme ad amici e parenti normodotati o anche altre persone disabili, quindi in un contesto di inclusione sociale, di integrazione, quindi tutti insieme divertendosi. Ma fantastico, addirittura non hai neanche utilizzato tutto il tempo a disposizione, Matteo. Allora ti faccio io una domanda. Intanto complimenti, perché un'idea come questa per far fare sport a persone disabili, ma non necessariamente sport di cui si parla molto, sport agonistico, sport competitivo, ma uno sport così dilettantistico, volutamente per tutti, alla portata di tutti. Come investirete questi 25.500 euro, Matteo? Ecco, allora, le attività che abbiamo organizzato sono, come dicevi, sia in estate che in inverno. Per quanto riguarda le attività invernali, ci muoviamo nei comprensori fisici del Corno alle Scale del Monte Simone, che si trovano qui in provincia di Bologna e di Modena, e organizzeremo degli allenamenti di sci alpino con la nostra allenatrice che è Barbara Milani, che è stata per 10 anni nella squadra nazionale di sci alpino, quindi è come una sciatrice di altissimo livello, oltre che avere una sensibilità personale insomma notevole, e permetteremo appunto a persone con disabilità motorie di allenarsi assieme agli altri, quindi perfezionare il loro stile e magari anche avviarsi all'agonismo. Perché no? Perché no? Sì? Perché no? Perché in realtà abbiamo un ragazzo che si è allenato con noi per tanto tempo che adesso sì. partecipa con la squadra nazionale di sci alpino. Ok, volevi dire qualcosa anche sullo sport estivo forse? Ti ho interrotto? Sì, due parole sull'estate, perché in realtà il tempo libero c'è anche d'estate. Certo. E noi insomma siamo appassionati di bicicletta e abbiamo pensato di creare un'infrastruttura, diciamo un database di itinerari, quindi 45 itinerari ciclabili accessibili che possono essere percorsi da tutti, quindi da persone che hanno una disabilità motoria con l'hand bike, quindi pedalando con le braccia, o da persone che non si vedono, quindi che vanno col tandem, quindi si siedono sul sedilino posteriore. Quindi ci vogliono dei percorsi ciclabili, insomma, particolari, e che anche questo fa parte del progetto Outdoor Regione 365. Grazie Matteo Brusa, resta con noi naturalmente, perché adesso anche i giurati restino belli concentrati. È il momento di presentare il secondo progetto di oggi, che è molto diverso naturalmente, ma il bello di Cloud Me Up è anche questo, sono idee anche molto diverse tra loro. Vai col secondo progetto. Base, anche qua effetto, si chiama Degustami, degustare in questo caso diventa un gioco, sentite perché? Perché grazie alle tovagliette, ai calici, a tutti i materiali che vengono illustrati, si potranno conoscere le eccellenze enologiche e anche legate alla birra, divertendosi. Per sostenere la produzione e la possibilità di questo prodotto, molto molto originale dobbiamo dirlo, gli ideatori vorrebbero raggiungere 10.000 euro, ce ne parla Matteo Marco Galiano, uno degli ideatori appunto. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi, grazie per avermi contattato. Intanto complimenti, perché Degustami finalmente il nome di una startup in italiano, perché ogni tanto ci fa piacere. Matteo, anche a te un minuto di tempo per spiegarci come e perché sostenere questo progetto. Allora, come hai detto, siamo una startup italiana che ha avuto questa idea di realizzare una scatola per far provare eccellenze enologiche e birrarie al pubblico. Eccellenze che si possono degustare senza necessariamente essere degli esperti. E difatti quello che noi mettiamo a disposizione, oltre al prodotto, sono delle informazioni, un libretto che spiega come fare una degustazione di un vino o di una birra, come per esempio riconoscere i profumi, e insieme a questo anche una scheda dei profumi che aiuta la consulta proprio a trovare, a scovare questi profumi all'interno di quello che sta bevendo. I profumi del vino sono sempre un momento molto particolare, perché uno cerca di capire, ma in genere non si riesce mai a indovinare l'aroma di pesca, per esempio, no? Per esempio, sì, ma questo come altri che sono magari più caratteristici di vini magari particolarmente invecchiati, quindi alcuni profumi che potrebbero anche non essere così, potrebbero sembrare non così piacevoli, come il profumo magari anche di catrame, che uno potrebbe pensare ma che cosa brutta, in realtà all'interno c'è, magari un barolo può essere, esatto, può avere un suo perché. Noi oltre a questo forniamo chiaramente anche dei calici che consentono di degustare al meglio, quindi di provare al meglio tutti i prodotti. Ma cosa hanno di particolare poi questi calici? Come funziona esattamente, concretamente il prodotto? Ogni calice, o meglio ogni prodotto ha delle caratteristiche, ogni vino, ogni birra che tu puoi bere ha dei profumi che si esprimono al meglio con un calice che può essere più grande, più piccolo, con una base un po' più allargata piuttosto che una parte più ristretta per concentrare i profumi verso il naso. Queste sono cose che si imparano seguendo strada anche dei corsi da sommelier. Vabbè, la strada è lunga. Noi su questo abbiamo cercato di concentrare queste informazioni, ma soprattutto di renderle al pubblico tutte in un kit. Perfetto, va bene, ci dobbiamo fermare qua perché abbiamo i nostri giurati a cui dobbiamo dare la parola assolutamente. Quindi Virginia da Roma, ti chiedo quale dei due progetti, certo, molto diversi. È difficile. Gli italiani veramente hanno tanta fantasia e tanta intelligenza. Tu su cosa scommetteresti? Io mi dispiace per il secondo, ma farei il primo. perché i disabili che sono a contatto con la natura, mi piace l'idea. Outdoor Regione 365, primo punto a favore. Sentiamo allora Paola da Ravenna, invece, se vuole riequilibrare. Per me è difficilissimo. Mi occupo di volontariato nel campo della disabilità, sì, e ho un figlio disabile. In più mi occupo di turismo da 40 anni. Quindi sei a metà fra le due cose. Sono veramente a metà fra le due cose. Per cui è molto difficile, ma anch'io opterò per i disabili, non tanto perché ci sono coinvolta, ma perché credo che oggi la nostra società deve fare molto molto di più per inserirli, che vuol dire agevolare la vita non solo dei disabili ma di tutti, perché è un'accessibilità, non va è bene, un aiuto alla perfetto disabilità. Paola, grazie. Naturalmente la possibilità di fare sport, anche l'ho già detto in maniera dilettantistica, per i disabili che hanno tante possibilità oggi, alcune possibilità per fare sport agonistico anche con risultati eccellenti. L'Italia è piena di grandi atleti disabili, però questo è un progetto che evidentemente ha una sua forza, e quindi oggi 2-0 è questo il risultato. Outdoor Regione 365 sulla piattaforma di Eppela vince la nostra giuria popolare di oggi, ma complimenti naturalmente anche all'altro progetto, Degustami, che trovate sempre sulla stessa piattaforma. Io ringrazio Matteo Galeano di Degustami e Matteo Brusa di Outdoor Regione, e vi faccio in bocca al lupo, perché come sempre questo è un gioco, vincono tutti. Andate su Apple e fate una piccola donazione, oppure anche sulla pagina di Cloud Me Up sul sito di Radio 24. Noi ci risentiamo tra poco. 349-238-666 800-24-0024. Crowd Me Up, la voce del crowdfunding, in collaborazione con Eppela.